24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina, e noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. Non gioco più, me ne vado, non gioco più. Ma nel PD lo sanno che lei si dimette dal Parlamento? Adesso penso di sì. Questa è una notizia... Ma non gli dia troppa importanza alla cosa, perché non mi dimetto dalla politica. Io non prendo nessuna pensione da parlamentare, non prenderò nessuna pensione da parlamentare, ho 48 anni, quindi... Cemento, tu parli e non ti sento, io cambio e chi non cambia resta là. Lei è formato il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio invece non era stato informato di questa decisione. Ma penso che adesso lo sa. Adesso lo saprà, però non era stato ancora informato. No, ne parleremo, siamo sereni nei nostri rapporti. Faccio male. Io detesto House of Cards, credo che sia la peggiore delle fiction televisive che si possa far passare. L'idea di politica che esce da lì è una politica tutta fatta di intrighi, di cose terrificanti. Si noterà che è quella preferita dal presidente Renzi, non lo sapevo. L'ha detto qui, non l'avevo visto. Questo. A me non piace, mettiamola così. O meglio, magari uno si diverte anche a vederla, ma il tipo di politica che da lì esce. Ma lei ha conosciuto politici come quelli? No, spero che non ce ne siano, quelli sono tremendi, cioè è una roba. Lei non li ha mai conosciuti? No. Enrico Letta da Fabio Fazio annuncia: me ne vado dal Parlamento, mi dimetto, ha avuto un incarico importante, quindi vivrò di politica. È la prima apparizione pubblica dopo tutta la vicenda. Stai sereno, eh? Come beh, c'era una clac, poi a ogni sospiro di Letta rideva. Ma lo sa il PD che lei si dimette? Adesso lo sa. Vabbè, ma cioè, voglio dire, sarà una notizia, no? Comunque una notizia, dai. Enrico Letta, stai sereno, ve lo ricordate? O Enrico Slitta, come veniva soprannominato quando i provvedimenti venivano sempre rinviati. Come la legge elettorale, 103esima settimana decisiva per la riforma elettorale che inizia oggi, lunedì 20 aprile, compleanno di mia figlia Angelica, compleanno di Massimo D'Alema. Tra Renzi e Letta chi cede? Com'è? Tra Renzi e Letta chi cede? Chi è Letta? Questa è la Brunetta, un Brunetta dannata. Dopo ve lo fate risentire. Compleanno di mia figlia Angelica, compleanno di Massimo D'Alema che brinderà con un ottimo vino. Per la verità è anche il giorno in cui è nato Adolf Hitler oggi. Vabbè, insomma, sono cose che succedono. Vincino, lo sapevi? Vincino, buongiorno. Che è nato Adolf Hitler oggi. Io lo so perché è nata mia figlia e quindi, sai, si va a vedere... Io credevo che da due giorni fanno la festa a Varese, là. Credevo fosse qualche giorno fa, vabbè. A Varese? C'è qualcuno? C'è qualche pirla che ancora festeggia? No. Mamma mia, che deficienti. Che deficienti. Vabbè, ci sono i deficienti al mondo. Auguri a tua figlia. Grazie, perché quando nasce vai a scoprire uomini famosi, e c'è Hitler, D'Alema. Ci bastano questi due, va bene. Allora, c'è Vincino qui, come avete immaginato, e c'è una donna che noi confidiamo ancora, perché è noto del ci sono dei momenti in cui sembrava tutto fatto per il direttore dell'unità, no? Tre uomini in ballo, e invece poi le cose si sono un po' scombinate, non arriva il nome, si parlava dell'unità inizi di maggio, già ridacchia, forse sa qualcosa che noi non sappiamo, caro Vincino. È Chiara Geloni, Chiara Geloni. Buongiorno. No, sai perché ridacchiavo? Perché pensavo forse dovresti cominciare a contare le settimane decisive per la riapertura dell'unità. Per esempio. Potrebbe essere un'idea. Stai dicendo che tu sai qualcosa che noi non sappiamo? No, assolutamente no. So che era stato detto che l'unità tornava in edicola il 25 aprile. No, poi da noi veneziani ha detto i primi di maggio, il 25 aprile è un po' duro. Perché dico che devi cominciare a contare le settimane decisive? Ma non lo so, magari c'è un intoppo nella scelta del direttore, vai a sapere. E quindi potrebbe tornare in gioco la nostra Chiara Geloni, chi lo sa. C'è anche la direzione del Corriere in gioco, Bravo, cose grosse. Quindi Milan mi vuole limitare. No, per carità, non volevo limitarti. Sai com'è? Si inizia con l'unità, poi si passa. Giustamente, lui dice c'è un posto libero anche al Corriere. Occupiamolo, come si fa in Italia: c'è un posto libero, occupiamolo. Per esempio, il curriculum. In Parlamento non funziona così: c'è già la sostituta di Enrico Letta che entrerà. Se no, Vincino, si poteva occupare anche un posto in Parlamento. Ma si deve dimettere dal Parlamento pure lei, pure Chiara. Ma Chiara non è in Parlamento. Non è in Parlamento, Chiara Geloni. Ma no. Ma c'era vicino, no? Niente. Ma c'è Bersani per lei in Parlamento. Vale per due, c'è Bersani e anche vota per la Geloni. Allora, 103esima settimana decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province. Sì, Lorenzo Nespoli c'è in redazione, il nostro Peter Bescapè è tornato in regia e il Parlamento può aprire. Allora, ufficialmente... Adesso vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo più tardi, grazie. Tra l'altro poi parliamo dei temi, ma a proposito di posti, vorrei soprattutto segnalarla a Vincino. Ecco. C'è il Movimento 5 Stelle che ha lanciato l'invito in vista delle prossime comunali a Matera di inviare il curriculum per diventare, proporsi come assessore. Tu, l'assessore a Matera, potresti farlo per il 5 Stelle? Io? Non lo so, non ti piace Matera? No, Matera è bellissima, assolutamente. Città europea della cultura, è meravigliosa, è veramente, veramente bella. E quindi? Non credo che loro mi prendano, però... Perché non hai il curriculum adeguato? No, il curriculum adeguato, c'è un curriculum per fare l'assessore alla cultura, all'informazione, a tutto, no. Al traffico. Adeguatissimo, laurea in architettura, direzione di giornale, insomma, sono il più curriculato del mondo, se avessi fatto un curriculum mai nella mia vita. Il problema è quel rapporto con il 5 Stelle, magari. Il problema è quel rapporto con il 5 Stelle, esatto. Sì. Vabbè, però se vuoi sappi che cercano curricula. Se loro mi vengono a cercare, io ci posso pensare, ma adesso... io andare a loro, guarda, io non ti abbassi a questo. Allora, hai visto Chiara Geloni e Enrico Letta? Ho visto. Che ti dice? Sei preso un po' di... Sei tolto qualche sassolino dalla scarpa oppure no? Sì, adesso... Era sereno. Però insomma, diciamo che ha dato una notizia, qualche notizia. Vabbè, ma si dimette dal Parlamento, ma sì, adesso tutto obiettivamente. Sommato. No, sì. Per carità, diciamo, gli gesti eroici non sono questi, credo che lo sappia anche lui. E, fra l'altro, Enrico nell'ultimo anno, insomma, Enrico Letta, il Parlamento l'aveva frequentato abbastanza poco, non è che facesse grande attività parlamentare, si capiva che il suo interesse in questo momento della vita non era su questo. Mamma mia, però la politica come brucia le persone. Farà più politica di prima, però. Sì, ho capito, ma come brucia le persone, cioè era diciamo che abbiamo vissuto un... Era presidente del Consiglio fino a un anno e mezzo fa. Non ci capiva niente. Cioè, ma era proprio il cervello bruciato. Se lui dice che House of Cards, tutto quello, non ha mai visto uno, ma era circondato da gente tipo House of Cards, da politici, minatori. A lui non piaceva. Ho capito, non gli piace, però, come dire, se non capiva che intorno a lui era pieno dalla sua parte, dalla parte avversa, di politici fatti così, nati così, come dire, non è che avrà stretto la mano qualche volta in famiglia, poi sai, lo portavano suo zio, come dire, non è Gianni che da Andreotti, da quella, come dire, vabbè, ma dai, ma appunto suo zio ed era pieno di quelli là. Ho capito, andava dai, però... al partito ed era pieno di quelli là, cioè dici ha fatto un po' lo sprovveduto in un mondo di squali. Vorrei difendere zio di Letta, però non credo che suo zio sia come il protagonista di peggio, assolutamente peggio, con le sue mani, cioè, no, però quello che vuol dire Vincino è che quello che vuol dire Vincino è che li conosceva, cioè non è che fa parte, non era un marziano. Enrico Letta non è un marziano catapultato nella politica. Adesso, però, se parliamo seriamente, ieri sera Enrico Letta ha detto di House of Cards che lui fa una scuola di politica che cerca di insegnare un modello totalmente alternativo a quello di House of Cards che lui detesta. Mi sembra una cosa, diciamo, legittima da dire, anche se avesse conosciuto qualche politico che assomiglia a quelli di House of Cards, lui dice la mia idea è totalmente un'altra, la politica per me è un'altra cosa. Sinceramente io sono d'accordo con lui, ecco. Poi io sinceramente adesso tutti questi banditi non li ho conosciuti in questi anni in cui ho frequentato un po' la politica. Ma te ne hanno arrestati a decine nella tua corrente, guarda, ne hanno arrestati a decine della tua corrente. Ecco, ma sei svegliato Vincino, è partita la settimana di Vincino. Sinceramente non mi risulta, ecco, di aver vissuto con dei banditi e neanche che siano state arrestate così tante persone. Poi sai, l'Italia è grande, c'è gente che io magari neanche conosco, che fa parte di... poi non so neanche di quale corrente parli. No, va bene, gli amici di Bersani, no, ecco. Quelli che sono più a contatto con la Lega delle cooperative. Cosa, no? Le cooperative, cosa? Le cooperative cosa? Della gli amici di Bersani armata. Cosa? Cosa? Zoggia, per dire, Zoggia, si prendeva Zoggia i soldi dal Monte. Stato assolto. Prendeva, ma che è stato assolto? Sì, assolto di chi? I soldi li riprendeva o no? Ha lavorato per il Monte o no? È stato assolto, Vincino, fai il bravo perché sennò partono le querele. Poi. Ho capito, ma lui ci ha lavorato, lui ha fatto il commercialista per quelli del Mose. E allora ma siamo pazzi? Ma siamo pazzi a dire queste cose? Lui ci ha lavorato. Scusa, uno da assessore di una città, da politico, da assessore provinciale di una città, lavora. Vincino, fermati, è stata assolta. Intervengo qua io. Ma non è la soluzione. Vabbè, tu dici ho capito, dai, Vincino, adesso non si può lavorare con le persone. Ma che il Mose fosse una congeria anche di imbrogli, di cose enormi, no? Lo sapevano. E vabbè, si fanno i processi, poi se uno viene assolto, viene assolto, se uno viene condannato, viene condannato. Ho capito. Comunque, vai, Vincino è così, si è scaldato, è partita la settimana di Vincino. Lo vedo in televisione ora, ma dico io, dopo che tu ti sei tenuto ciucci, cose e quegli altri per tanti anni senza controllare niente, senza fare niente, dico io, ma te ne dovevi andare prima. Vabbè, Vincino è così, Chiaretta. Quando diventerai direttore dell'unità, mi sa che hai già perso la vignetta di prima pagina. Aspetta, Vincino, fermati. Questo cinismo di far credere alla gente che sono tutti banditi e ladri, che poi diciamo giustifica certe mostruosità di chi si crede che la politica sia il gioco di House of Cards. Io mi rifiuto di pensarla così. Io mi conosco da 40 anni di studio, vissuto da 40 anni. Ma che vuol dire di studio? Ma stai parlando con della gente che ci crede, capito? Ma io pure ci credo. Ma studi, ma cosa sai di me? Lui studia. Che tu sei assolutamente, anzi tu mi fai simpatia. Aspetta, io ti allora, però ogni volta tu non c'entri niente, fanno tutti schifo, ma tu non c'entri niente. Cominciamo a pensare che c'è gente che non fa schifo, capito? Non è vero che fanno tutti schifo. Già per te, guarda, non è che io da 40 anni, da giovanissimo, sono andato a cominciare a vedere il Consiglio Comunale di Palermo. Ma che c'entra adesso? Lui è l'ombrosiano, lui disegna, lui... Cominciavano a mangiare e fare le cose nel luogo, nella loro città. Eccolo lì, vabbè, Vincino così, è l'ombrosiano. E costruivano consorterie, Vabbè, fermati, dai, parliamo un po' di quella che purtroppo è la tragedia del Mediterraneo. Io ne parlerò anche alle 8:15, anche se ormai qui non si sa mai più cosa dire, cioè, perché oltre a registrare le solite polemiche politiche, Salvini che spara a zero, i morti, purtroppo la conta dei morti stavolta pare ce ne fossero 950 su quella nave, 950. Adesso qualcosa di concreto si dovrebbe fare, cioè, per esempio bombardare gli scafisti e le loro navi con il controllo anche dell'ONU, eccetera, fare un'operazione di polizia internazionale, cioè qualcosa di concreto invece di dire sempre solite cose e l'Europa ci aiuti e l'Europa non ci lasci solo, cioè qualcosa da fare. Chiara Geloni, la politica può fare qualcosa, cioè dire andiamo a fare un'operazione internazionale di polizia e bombardiamo le coste libiche dove vediamo gli scafisti che stanno preparando i barconi, per esempio. Si può fare? Insomma, bombardare i barconi, cerchiamo di bombardarli quando sono vuoti, però. Sì, no, certo, giusta precisazione, ma lo davo per scontato, Dai. Una prospettiva questa dalla quale affrontiamo questa questione, insomma, non abbiamo ancora trovato la chiave giusta neanche per affrontarla, secondo me. Perché adesso è giustissimo, è più che legittimo che il governo italiano dica l'Europa non ci lasci soli, ovviamente, perché è chiaro che siamo di fronte a una cosa che è più grande di un singolo paese. Però non siamo un piccolo roba paese, tocca di un solo paese, volevo dire. Però questa cosa tocca, è evidente che tocca all'Italia, voglio dire, non è che possiamo andare avanti. Sì, ma dire l'Europa non ci lasci soli, l'Europa, se anche l'Europa ci aiuta a gestire i 900 migranti che poi spesso muoiono, è un errore, cioè qualcosa va fatto secondo me di diverso. Infatti oggi i giornali lo raccontano che si pensa a un'operazione di polizia internazionale. Tutto quello che è stato fatto finora non è più sufficiente. No, anche perché si dice aiutiamoli a casa loro. Oggi il Corriere ricorda che diamo lo 0,7% del PIL per l'aiuto ai paesi poveri, è un sesto di quanto ci chiede la comunità internazionale. Quindi anche quando diciamo aiutiamoli a casa loro, diciamo minchiate. Anche il problema aiutiamoli a casa loro poteva essere linguaggio usi. Finché questo fenomeno avveniva per motivi economici, cioè di persone che cercavano lavoro fuori dal loro paese e quindi volevano. Sì, adesso scappano dalle guerre, è una cosa più drammatica. Questi sono profughi di guerra. Non solo molti quelli che vengono dalla Libia, dalla Tunisia e da altri paesi. Però del lì, nord, c'è un, lì c'è anche un. Anche da quelli dell'Africa nera che sì, vengono. Sì, è vero, ma lì fame. Ci sono degli affari che vengono fatti e c'è un paese e qualcuno in quel paese, la Libia, che si alimenta i propri affari attraverso questi viaggi. Libia, uno si immagina un paese con un governo. Non è vero neanche più questo. Però che fare, Vincino? Tu che faresti, Vincino? Allora, se la Libia non ha un governo. Però ce l'ha, nel senso che manda la sua vedetta della Guardia di Finanza a beccare i nostri pescherecci. Sì, ne ha diversi, ne ha uno legittimo. È pazzesco, quello là che arriva voleva portarsi il peschereccio nostro, perché non ma dico, scusa, c'è la Guardia di Finanza, c'è la nave, c'è là, vai a beccare i tuoi profughi, sì, ma è un paese, a casa. Sì, ma è un paese allo sfascio, voglio dire, allora, dove qualcuno quello a non seguirlo. Qualcuno sì. Sì, certo, ma qualcuno lucra probabilmente su questa cosa. Io vorrei capire se tu saresti d'accordo, per esempio, Vincino, se si mettono insieme a fare una operazione di polizia internazionale. Renzi pare che abbia chiesto a Obama, usiamo i droni e andare a distruggere i barconi prima ovviamente che vengano utilizzati. 4-5 posti là con i nostri marò nelle spiagge libiche, 4 fortini là, e quindi ricevere quelli là che vogliono e hanno tutte le carte in regola per essere, che vengono da un paese dittatoriale, da un paese in guerra. Ho capito, ma non può occupare il territorio libico. Ma come? L'abbiamo già fatta. L'abbiamo già fatta. Abbiamo fatto ammazzato Gheddafi, no? Abbiamo fatto i killer per i francesi. Ma no, però attenzione, Chiara Geloni dice si chiama guerra. Sei sicuro? Cioè, per esempio, c'è una risoluzione ONU che è quella per la Siria che permette di bombardare laddove c'è l'ISIS le postazioni. Si vuole, l'idea è quella di estendere anche al territorio libico questa risoluzione, per cui si fanno operazioni, cioè si individuano, non so, nella notte stanno allestendo sulle coste, ormai si sa tutto con i satelliti, no? Stanno allestendo un barcone, si va là e si bombarda, muoiono 3 scafisti, ma meno male, che dobbiamo fare? È anche una scelta giusta. Non ho dubbi che per contrastare il fenomeno sia necessario stabilizzare quei paesi e in particolare quel paese, la Libia. Però non diciamoci cavolate, cioè, queste cose si chiamano, se vuoi con un eufemismo, operazioni di peace, operazioni di sicurezza, sicurezza internazionale. Ma sicurezza sono operazioni internazionale. Militari, di ma certo, guerra. Ma certo che sono, è chiaro, se si va, fatte. Questo sì, se si va a bombardare un'azione militare. Sovranazionali e in maniera il più possibile mirata ed efficace sono operazioni ma senza dubbio, di stabilizzazione di un'area, non di contrasto all'emigrazione, ma di stabilizzazione. Ma questo senza dubbio, forse governo, però bisogna prima mafie locali. No, certo, forse bisogna prima in questa situazione, siccome ogni anno arrivano gli sbarchi e poi muoiono in questi casi migliaia di persone. Prima bisogna intervenire così e poi è chiaro che tutta la cooperazione, il fatto che diamo lo 0,7% del PIL è una vergogna e quindi questo rimane, questo andrebbe affrontato. 24 mattino. Sulla vicenda del Giuliano eccetera, nessuno ha mai ripreso quella prima intervista che fu fatta al padre, il quale si espresse in una solidarietà e una felicità di essersi liberato finalmente di un poco di buono. Occorre ricordare al signor Castelli che in Europa il reato di tortura è previsto in tutti gli stati e non si vede perché in Italia non si possa prevedere e regolamentare. Se non siamo capaci vuol dire che siamo delle scarpe come al solito. Caro Milan, lei si è chiesto in questo momento alla radio in che razza di paese viviamo. Possibile che ancora non lo ha capito. Questo è un paese sui generis, dove non c'è più nessun riferimento politico. I giovani sono disorientati, i politici stessi giocano ai quattro cantoni, passando da destra a sinistra, andando al centro, con la supercazzola volta a destra o volta a sinistra. È uno schifo. No, Milan, vogliono rifare la Costituzione. Le prime due righe dovrebbero essere: l'Italia è una anarchia costituzionale fondata sul chi se ne frega. Ma chi se ne frega? Il nostro ascoltatore oggi l'abbiamo usato anche qui, caro Vincino. Questa di solito è la chiusura della carta costa, la nostra... Sì. E che c'è? Una tortura sulla cosa, dico, era una. L'abbiamo fatta la legge. Insomma, poi sì, perché venerdì avevo il papà di Giuliani, figurati, si è scatenato l'inferno. Ha detto che è accusato. La gente che ha detto dai la parola a Carlo, al papà di Carlo Giuliani, non ascolto più Radio 24. La gente è messa anche così. Cioè, tu non puoi intervistare il papà di Carlo Giuliani. Sembra che se intervisti il papà di Carlo Giuliani, pensi le stesse cose di Carlo Giuliani. Cioè, la gente non capisce neanche il senso di cos'è un'intervista. Un ragazzo che ci credeva, come dire, non è che assolutamente. Beh, insomma, adesso non lo sappiamo. È un giovane che faceva politica e ci credeva, come io ho fatto politica quando avevo adesso, voglio dire, non fare anche tu che poi riapri tutte le polemiche. È stato ucciso. È stata una tragedia, e questo dispiace, però era lì con un estintore in mano. Era lì in quei giorni a Genova a protestare contro. Vabbè, dai, ma non riapriamo adesso la vicenda Giuliana, perché sennò. Sentiamo invece Salvini e Renzi sulla questione. Salvini, come al solito, la tocca piano sulla questione immigrati. Cos'è cambiato dalla strage di Lampedusa? Da questi... Niente. Partono, annegano, sbarcano, vanno in albergo, spariscano, si alimenta lo scontro sociale, la confusione, la guerra fra poveri. Occorrono altri 700 morti per bloccare le partenze? Se le autorità internazionali, bloccare penso le all'ONU, penso ecco alla NATO... Poi vi dico, poi mi dite cosa ne pensate. Ieri Radio Padania anche... A un certo punto telefona Daniele da Brescia, racconta La Stampa e dice: non danno soldi ai pensionati per mantenere quegli animali bastardi che vengono qua. Il conduttore: penso che dicendo animali tu ti riferisca ai clandestini, giusto? E via così. Ecco, Chiara Geloni, e via così. Allora, io penso che Salvini non si renda conto o preferisca far finta di non rendersi conto che le migrazioni sono un fenomeno che non si può bloccare, cioè nella storia dell'umanità sono sempre esistite. Sì. E il popolo ebraico andò in Egitto e poi tornò indietro, no? Voglio dire, sono cose che sono fenomeni storici, antropologici. E quello che sta succedendo è vero che crea allarme sociale, perché lo so anch'io che c'è il terrorismo, che ci sono tantissimi problemi aperti relativi all'integrazione culturale, eccetera, ma dipende dal fatto che queste persone, siccome scappano dalle guerre, mm-hmm. Quando vengono qui fanno la richiesta di asilo politico perché sono profughi di guerra. E quindi non tutti, quasi tutti ormai. Sono aumentati perché sono aumentati gli scenari di guerra. E l'Egitto è che scappano dall'Egitto, scusa. La legge prevede che quando uno fa la domanda come rifugiato di guerra, deve aspettare la risposta e deve aspettarla a carico dello Stato. Non può cercare lavoro in quei mesi. Chiaro, ma infatti Salvini li vuole bloccare, quindi, dice bloccare, capito? Bloccare, per esempio il blocco navale, questa è un'altra ipotesi. Credo che questo fenomeno vada arginato, soprattutto si devono impedire questi naufragi drammatici, queste carrette con 900 persone stipate che si ribaltano perché sono troppo piene, e queste morti pazzesche. Sì, sì, dopodiché, certo, il fenomeno migratorio in sé esiste, non può essere bloccato. Questo è vero. Però ad esempio oggi il giornale racconta come in Australia lì abbiano un pattugliamento militare per sconsigliare, magari uno dice sconsiglia, al quarto, quinto viaggio e si capisce che non si passa, uno magari desiste e si svuota il fenomeno così con una resistenza. Comunque io devo chiudere ringraziando Chiara Geroni. C'è sempre speranza per la direttrice dell'Unità. Speriamo. Vincino, c'è speranza per te, assessora Matera? Assolutamente no, ma anche per il Corriere e Caraggedori, naturalmente. Vabbè, sì, certo. Corriere o Unità? Però per il Corriere è un po' più dura, sembra già la partita chiusa. L'Unità invece c'è questo giallo. Va bene, vi ringrazio. Alla prossima. Tra Renzi e Letta chi cede? Com'è? Tra Renzi e Letta chi cede? Chi è Letta? 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Cari ascoltatori, la 103esima settimana decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province è cominciata. Abbiamo cambiato il regista, c'è Carmelo Lauricella ora in regia. Mi sono svegliato alle 6.30, c'era l'Alpino Peter Bescapè, l'Alpino si è svegliato alle 3, alle 6.30 ha finito di lavorare, va a bere la sua grolla e va a coricarsi. E allora saluto Carmelo Lauricella, eccoci qua insieme a Lorenzo Nespoli, siamo pronti a leggere i giornali. Oggi parleremo anche ovviamente di quello che è successo al largo della Libia, l'ennesima tragedia, le polemiche e... Ora si pensa davvero a fare qualcosa di concreto, per esempio bombardare i barconi vuoti, ovviamente prima che partano. Si può fare? Questo è allo studio ed è una delle tematiche che sono affrontate dai giornali che tra poco leggeremo. Noi avremo il sottosegretario alla difesa Domenico Rossi, nostro ospite, insieme a Carlo Panella di Libero. Poi parleremo anche di politica italiana, racconteremo un po' queste storie di sì, alcuni sindaci della Campania che, lo dicevamo la scorsa settimana, siccome non possono candidarsi alla regione, hanno scovato dei metodi per decadere, ma in maniera un po' strana, da sindaci per candidarsi alla regione. Lo racconteremo, una storia tipica all'italiana che ci dovete fare. Intanto andiamo a leggere i giornali. È lunedì 20 aprile, come detto è il compleanno di mia figlia Angelica, 9 anni, portati benissimo, tanti auguri, cara figliuola. E allora andiamo a leggere i titoli dei giornali. Il Sole 24 Ore, la sorpresa dei sindaci, gradimento in ripresa, lo abbiamo sentito anche nel giornale radio, è la classifica annuale, il sondaggio IPR Marketing Sole 24 Ore, che vede al primo posto come sindaco più gradito dai suoi elettori Nardella a Firenze, davanti a De Caro di Bari e Giorgio Gori di Bergamo. e poi vedremo tutto il resto della classifica. Ovviamente la vicenda al largo della Libia catalizza le prime pagine. Sono annegati sognando l'Europa, titolo del Corriere della Sera in prima pagina. L'apocalisse dei migranti, questa l'apertura di Repubblica. 700 morti di buonismo, questo il giornale. La Stampa invece, l'ecatombe del Mediterraneo. Per il Messaggero, la vergogna dell'Europa. Il Fatto Quotidiano invece, Mar Morto. Alfano, ministro dannoso, è il sottotitolo di prima pagina. Vabbè, mettiamole lì queste notizie e le vedremo più avanti. Partiamo da altre cose, come al solito. A cominciare dal Sole 24 Ore non è la classifica dei sindaci che vedremo dopo con Mauro Meazza, ma è un'altra classifica che Valeria Uva racconta a pagina 4. Imprese, pubblica amministrazione, spesso un rapporto ben ostico, soprattutto per quel che riguarda i pagamenti che la pubblica amministrazione deve alle imprese. Sappiate che il peggior pagatore tra i comuni è il comune di Reggio Calabria, che in media paga 2 anni... di ritardo, con 2 anni di ritardo, o meglio no, paga a due anni, beh, più o meno, visto che in genere sono 3 o 6 mesi i pagamenti. Al contrario, a Trento è il miglior pagatore, perché paga in genere 1 mese in anticipo rispetto alla scadenza della fattura. Valeria Uva, pagina 4, per essere pagate dal comune di Reggio Calabria le imprese hanno aspettato in media 2 anni, al contrario a Trento appunto ci si può presentare alla cassa con quasi 1 mese d'anticipo rispetto alla scadenza in fattura. Tra i comuni capoluogo di provincia, quello calabro è il peggior pagatore, con un'attesa media l'anno scorso pari a 734 giorni, all'opposto il più rapido nel saldare i fornitori è il comune di Trento, che in media è riuscito a pagare 22 giorni prima della scadenza pattuita. Dunque Reggio Calabria e Trento si trovano rispettivamente al primo e l'ultimo posto della classifica dei peggiori pagatori tra i comuni nel capoluogo di provincia. È stilata questa classifica in base all'indicatore di tempestività dei pagamenti, è un indice ufficiale, soprattutto omogeneo, che per la prima volta da quest'anno tutti gli enti locali devono calcolare e pubblicare sulla sezione amministrazione trasparente del proprio sito. I troppo lenti sono Reggio Calabria, ma come detto anche Benevento 443 giorni, Ragusa 350, Potenza 340 giorni, Andria, Salerno, Catania, Terni, Caserta, Foggia, Alessandria, il primo comune del nord di questi. I regolari invece sono Reggio Emilia, Modena, Cesena, Genova, San Luri, Pisa, Imperia, Ravenna, Sassari, Crotone, Pavia, Piacenza e tanti altri. I più veloci, i meritevoli sono Trento, paga 22 giorni prima della scadenza, Taranto 10 giorni prima, Verona 10 giorni prima della scadenza, Trieste, Bologna, Ferrara, Brescia, Treviso, Enna, Belluno, Lecco, Villa Cidro, Gorizia, Olbia, Oristano, Firenze e Verbania. Questi sono invece i più veloci tra i pagatori. A proposito di pagatori, oggi il giornale fa, o meglio di entrate, il giornale fa 2 pagine di inchiesta il lunedì, spesso accade al giornale, nella corpo centrale del quotidiano. Case, lezioni private, golf, la nostra vita in nero. È un'analisi di tutto quello che facciamo in nero. E chi non fa del nero? Chi non paga qualcosa in nero? Accusiamo i piccoli imprenditori di evadere, ma spesso i furbetti siamo noi. Peccati veniali, magari, racconta il giornale, che però al fisco costano sommati miliardi. Giacomo Susca, pagina 14 e 15, puntare il dito contro gli evasori è sacrosanto se lo si fa dal lato giusto della luna, ma tutti i giorni ci capita di fare incursioni in quella porzione d'Italia che sta nell'ombra. Per esempio, universitari e precari che arrotondano, laureati disoccupati che sbarcano il lunario, docenti che al pomeriggio svolgono un lavoro secondo, i genitori di 4 milioni e 200 mila ragazzi di scuole medie e superiori che frequentano lezioni private. Le associazioni di consumatori fanno i conti in tasca, per esempio su questa cosa. Gli studenti, il 45% frequenta corsi di dopo scuola, secondo l'ADOC. In media un'ora di lezione arriva a costare 25-30 euro per 2-3 volte a settimana. Chi è che paga regolarmente o è in nero? Oppure sanatorie, sgravi, deduzioni fiscali per chi assume, controlli serrati contro chi se ne approfitta, il mondo di colf e badanti. O guardate questo, tingere e ricostruire unghie in casa. Attrezzata come laboratorio su strada, può fruttare 500 euro al giorno, ma non si versa spezzo un centesimo al fisco. Il problema è quando capita in negozio. Una finanziera in borghese, come in Toscana, un'estetista abusiva, lo scherzetto è costato 10.000 euro di multa più 90.000 da sborsare per mancati tributi all'erario. Sul verbale c'era scritto esercizio abusivo dell'attività di onicotecnico. Insomma, gli estetisti pirata, quelli che ti vengono a casa e ti fanno le unghie. Chi non l'ha mai fatto tra le donne? Forza, alzatevi, abbiate il coraggio di dire: io mai, mai, niente in nero faccio. E in realtà il giornale mette insieme tutti questi numeri a dire che poi sono evasioni, magari peccati veniali per noi, 20, 30, 40 euro non dichiarati che vanno a sommarsi e sono, secondo il Codacons per esempio, 850 milioni di euro solo il giro di affari delle lezioni private scolastiche in nero, 850 milioni. Il giro di affari per parrucchieri e estetisti abusivi, 2 miliardi, secondo le stime. Il business del commercio abusivo, 5 miliardi, secondo le stime. Mettetene insieme questi qui. Oh, che t'ha combinato Giorgio Armani? Ha fatto un'intervista al Sunday Times, come racconta Alberto Flores d'Arcais, a pagina 19 di Repubblica, e ha parlato di come si devono vestire gli omosessuali. Lui, omosessuale dichiarato, dice: Giorgio Armani ai gay, vestitevi da uomini, non da omosessuali. Chissà se partirà l'ennesima polemica stile Elton John Dolce Gabbana, chi era? No, stavo dicendo Versace, Dolce Gabbana. Non vestitevi da omosessuali, un uomo deve essere un uomo. Chiunque dicesse una frase di questo tenore darebbe il via a un'accesa discussione, ma se a farlo è uno dei più grandi, probabilmente il più grande degli stilisti del mondo, che peraltro non nasconde di essere gay, la polemica è quasi certamente assicurata. Un omosessuale, dice Giorgio Armani, è un uomo al 100%, non ha bisogno di vestirsi da omosessuale. Così Giorgio Armani, Repubblica dedica una pagina a questo. Non vedo perché ci si debba esibire all'eccesso. Questa è la linea dello stilista Giorgio Armani, noto in tutto il mondo. Poi parla di altro, ovviamente, ma questo è ciò che ha colpito Repubblica nell'intervista. Va bene, siamo al momento dell'articolo che ci fa tenere le mani ben strette sul volante se siete alla guida. E a tutti i pargoli, figli dei genitori che in questo momento tengono le mani strette sul volante, voi figli dietro che state andando a scuola, posizione d'atterraggio d'emergenza in aereo con tutti rannicchiati così, perché sentite sul giorno le intercettazioni che ci introducono all'argomento che affronteremo, l'argomento principe oggi sui giornali, l'ennesima tragedia nel Mediterraneo, dopo la pubblicità. Le intercettazioni shock, lo scafista, guadagno 800.000 euro a viaggio, 800.000 euro. Sono state messe delle cimici per un'intercettazione ambientale nel carcere di Marassi a Genova, dove erano in carcere degli scafisti, e si sono scambiati queste parole: i passeggeri sono degli scemi, spendono una fortuna, anche 35.000 lire egiziane, cioè 3.500 euro a testa, e poi più della metà viene rispedita indietro. Sai quanto ha guadagnato il proprietario della barca? 8 milioni di lire egiziane, cioè 800.000 euro. Queste le intercettazioni shock. Questo vale uno di quei barconi dove sono affondate forse 950 persone, secondo gli ultimi resoconti erano 950. 800.000 euro a viaggio, avete capito? Avete capito? Tenete sempre le mani ben strette sul volante. Alessandro Milan, il Franco Baresi dell'informazione. Crivio, come ci servirebbe Baresi? Ieri per esempio. Allora, cari ascoltatori, come detto, la notizia con cui aprono quasi tutti i giornali è l'ennesima tragedia al largo della Libia. Tra l'altro, secondo le testimonianze di coloro che sono stati salvati sono anche di più dei 700 che si temevano all'inizio, cioè 950. Questo almeno raccontano Francesco Viviano e Alessandra Ziniti in prima pagina di Repubblica. La testimonianza della persona che è stata tratta in salvo, portata a Catania, dice questo: eravamo 950, tra cui 40 o 50 bambini, 200 donne, tutti gli altri uomini. Io ed altri ci siamo salvati perché eravamo in coperta, gli altri sono annegati, ma molti sono rimasti prigionieri nelle stive del barcone perché i trafficanti avevano chiuso loro i portelloni per impedirgli di uscire e sono finiti in fondo al mare. Così l'unico superstite è arrivato ieri a Catania con un elicottero della Guardia Costiera, ricoverato all'ospedale Cannizzaro. È sveglio, ma ha un trauma toracico, avrà tra i 20 e i 25 anni, del Bangladesh. Chiede notizie di un altro suo connazionale che per fortuna è anche lui vivo, a bordo della nave Goretti della Guardia Costiera, che oggi lo riporterà insieme agli altri superstiti a Catania. Quella di ieri, racconta Repubblica, una tragedia senza precedenti. Per tutto il giorno si è parlato di almeno 700 morti, ma secondo il racconto dell'unico testimone sarebbero molti di più, appunto, oltre 900. E l'orrore negli occhi del sopravvissuto, donne, bimbi chiusi nella stiva, eravamo 950, il mare ci ha inghiottiti. Ovviamente gran parte delle pagine sono dedicate proprio al racconto, alle testimonianze. Per esempio anche Gian Antonio Stella, prima pagina del Corriere, poi a pagina 2-3, racconta sia la tragedia e poi racconta per esempio e dà questo dato. Spesso si dice aiutiamoli a casa loro. Ebbene, sapete l'Italia quanto dà, quanto versa ai paesi poveri? Lo 0,13% del PIL. È un sesto di quanto ci chiede la comunità internazionale. Allora, quelli che dicono, e molti lo dicono, aiutiamoli a casa loro. Bisogna pagare per aiutarli, si chiama cooperazione internazionale. Poi ci sono quelli che dicono, ma chi se ne frega se i Mali muoiono, va bene così. Però poi dopo, se quelli del Mali, ho citato un paese a caso, vogliono spostarsi per cercare una vita migliore, qualcosa vorrà dire, no? Comunque, le testimonianze anche. Francesco Gallo, 35 anni, siciliano, finanziere, racconta pagina 5 del Corriere della Sera a Fabrizio Caccia alle 4 di ieri mattina, in mezzo a una chiazza nera di nafta, quando tra due salvagenti ormai vuoti e alcuni assi di legno marcia alla deriva, trova all'improvviso il corpo di un bimbo. Ci siamo avvicinati col gommone. In cuor mio pregavo fosse vivo, ma la speranza è morta poco dopo. Avrà avuto 10 anni quel bimbetto nero. L'ho stretto tra le braccia come fosse mio figlio, che non vedo da venerdì sera, da quando siamo partiti per la missione Tritone. Quando è scattato l'allarme di Roma a 00:30 al Monte Sperone, cioè la nave su cui è imbarcato questo finanziere, era già operativo nel canale di Sicilia, coi motori al massimo, velocità di 40 miglia, puntato dritto sulla verticale di Malta. Inutilmente, purtroppo, con la luce del giorno che aumentava, i finanzieri hanno visto altri corpi intorno a loro. Le testimonianze e poi il che fare. I soliti appelli: l'Europa non può lasciarci soli. Quante volte l'avete sentita questa frase? L'Europa non ci lasci sola. Pagina 5 della Stampa, c'è un'intervista alla alto rappresentante europeo per gli affari esteri, che è l'italiana Federica Mogherini. Capisco la frustrazione degli italiani, ma l'Europa è utile, dice la Mogherini. Eppure non si reagisce con la stessa enfasi. È il motivo per cui abbiamo deciso di aprire il Consiglio Esteri con l'immigrazione. C'è bisogno che tutti si assumano le proprie responsabilità politiche e operative. Voglio augurarmi un vertice europeo straordinario che faccia lo stesso. Davanti a numeri che stanno assumendo proporzioni gigantesche, una regolarità di flussi che è tendenza acclarata, occorre una presa di coscienza, l'affermazione di una posizione politica chiara e determinata. Cioè, capite quante volte l'avete sentite queste parole? Allora forse una sorta di escalation militare ci vorrebbe e forse ci sarà. Questo almeno raccontano un po' tutti i giornali. È allo studio di Matteo Renzi, un'operazione di polizia, la racconta Fiorenza Sarzanini, per esempio a pagina 9 del Corriere, un'operazione di polizia internazionale per mettere sotto controllo le spiagge e i porti della Libia, cioè formare un contingente militare autorizzato dall'Unione Europea e possibilmente anche dall'ONU per fermare l'attività criminale degli scafisti, cercare di stroncare il traffico di esseri umani. Tutte le opzioni vengono analizzate prima della riunione convocata a Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio Renzi. Quella subito scartata riguarda il blocco navale, questo no. Ma l'unica strada ritenuta percorribile in questo momento è un intervento che miri a stroncare le organizzazioni criminali. E potrebbe essere l'idea di estendere la risoluzione dell'ONU che permette di attaccare contro l'ISIS in Siria anche alla Libia e fare delle operazioni militari, per esempio individuare degli scafisti con dei barconi che stanno per partire, bombardarli, distruggere i barconi e uccidere anche gli scafisti. L'ultima opzione di Palazzo Chigi: distruggere i barconi in porto, ma serve un mandato internazionale. Goffredo De Marchis, a pagina 9 di Repubblica, racconta appunto che l'opzione è quella militare o di polizia internazionale, come scrive il Corriere. Si può usare appunto la risoluzione dell'ONU che consente raid aerei in Siria e in Iraq contro l'ISIS, estendendola alla Libia. Certo, è un'operazione militare, che si sappia, non è che poi si dice l'Italia ripudia la guerra, queste cose qui. Se si deve fare un'operazione militare, la si fa per stroncare questo fenomeno, perché come diceva quello scafista intercettato, guadagnano 800.000 euro a viaggio che spesso finisce. A volte purtroppo finisce come è finito il viaggio di ieri. Poi ovviamente c'è anche tutta la questione dell'accoglienza. Registro il sindaco di Vigo d'Arzene in Veneto, sindaco del PD, che si ribella e dice: mi dimetto perché io non voglio accogliere nuovi migranti. In realtà poi le dimissioni sono rientrate perché il PD me lo ha imposto, pagina 9 del Giorno. Volevano che accogliessi nella caserma del mio comune 100 profughi, mi sono opposto e ho dato le dimissioni. Si tratta del primo cittadino Francesco Vezzaro di Vigo d'Arzere. Ai vertici nazionali un sindaco sceriffo dà fastidio? Beh, su questi temi ai big non conviene esporsi. Comunque mi ha imposto il PD di non dimettersi, ma molti della Lega mi hanno chiamato per dirmi sei uno dei nostri. Ovviamente non è così, ma attenzione, continuando così vince la Lega. Così dice il sindaco di Vigo d'Arzere, Francesco Vezzaro, intervistato a pagina 9 del Giorno. Poi vabbè, registro anche questa, sulla Stampa. Radio Padania, ieri si discuteva, chiama Daniele da Brescia, non danno soldi ai pensionati per mantenere questi animali bastardi. E il conduttore, dandogli ragione: penso che dicendo animali tu ti riferisca ai clandestini che arrivano a frotte dall'Africa. E avanti così. Avanti così, Mauro Meazza, buongiorno, eccolo qua, il nostro buongiorno. Mauro. Va bene, questa volta che prendo... Azione, rete! Gol! Grande Vexes, gol! Attenzione, no. Il gol è stato annullato, è stato fischiato il fallo a Palacio. Ah, io pensavo di aver vinto 1-0 con gol di Vexes, e invece ladri! Ladri! Il gol di Vexes non l'avevo mai visto, comunque vorrei... Innanzitutto ricominciamo con ordine. Alessandro, buongiorno. Buongiorno Meazza. Buongiorno. Poi tanti auguri a tua figlia Angelica. Grazie, ovviamente. Come si sta sotto in classifica? Ma guarda, non è che voi siate così tanto distanti. Volevo congratularmi con il vostro portiere. Sì. Non quello con la maglia verde, quello che gioca più davanti, che avete due portieri. Antonelli mi pare si chiami, Antonelli. È molto bravo, io lo proverei. Non conosco. Lo proverei proprio anche con la maglia regolare da portiere e i guanti, perché lui deve prendere la palla senza guanti, poverino, che poi si fa del male. Esatto. Dopodiché pare che abbia una falange fratturata, effettivamente. Siete degli assassini. Anche mandato una cosina all'ottimo Carmelo Lauricelli, non so se possiamo sentire il contributo audio. 0-0 anche ieri, sto Milan qui. però ecco una chicca del grande Enzo Iannacci, che ti dedico volentieri. Grazie. Torniamo alle cose più serie. Classifica dei sindaci, come hai annunciato. Allora, Firenze in testa, tutta la graduatoria, perché dire classifica oggi tra me e te mi sa che non ci conviene tantissimo. Parliamo di graduatoria genericamente, e allora vince Firenze, e poi, come hai già riferito, abbiamo il sindaco di Bari e quello di Bergamo. Malino i sindaci di Milano e Roma, in generale i big, come commenta infatti Pisapia, è 67esimo e Marino 82esimo. Sì. Non vanno bene nel gradimento dei sindaci. Oh, di fianco c'è un'altra, non c'è una classifica questa volta, ma una infodata. Aspetta che la facciamo vedere, è questa? Ecco, ti ringrazio molto, se la puoi mostrare. Eccola qua. Perché da lì apprenderai che ogni giorno in Italia si scrivono più o meno 21 pagine di nuove leggi. Solo? Quindi è sempre una settimana decisiva. La settimana decisiva è dentro di noi, potremmo dire, perché, come vedi, ci sono in un anno 14 milioni di caratteri utilizzati. Ma è tutto spiegato lì con la forza dei numeri, in qualche modo. Ti segnalo anche sul Sole 24 Ore, ma nell'allegato, nell'esperto risponde, le modalità per cambiare il conto corrente, e anche, ero tentato di usarlo stamattina, la guida del garante per difendersi dalle telefonate moleste che non sono naturalmente quelle di Radio 24, no, ma di qualcuno invece, di Radio 24, magari di alcuni di Radio 24, certamente, però il garante ha dato delle indicazioni per quelle telefonate di telemarketing cosiddetto aggressivo, cioè che vogliono assolutamente venderti qualche cosa telefonandoti anche nelle ore più strane, ne conosco l'ora di cena. Alcuni, sì. Immagino che tutti ne abbiamo fatto l'esperienza. Poi naturalmente torneremo a parlare anche oggi di lavoro e carriere, sai, oggi è lunedì. Oggi è lunedì per forza. L'ha detto anche Enzo Iannacci prima, oggi con lunedì lavoro e carriere, ne parliamo a Radio 24, ma non ne parliamo con te. Teniamo le distanze, teniamo questo punticino, tenetevelo caro, no? Noi andiamo a cuore e denari da Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone a parlare di lavoro e carriere, delle opportunità della settimana. Alessandro Milan, l'arbitro imparziale dell'informazione. E va bene, eccoci qua. Allora, cari ascoltatori, la notizia politica del giorno è certamente il fatto che Enrico Letta, che è andato da Fabio Fazio, ha annunciato, l'ex Presidente del Consiglio, le dimissioni dal Parlamento. Mi dimetto dal Parlamento, non lascio la politica, si trasferirà a Parigi per dirigere l'Istituto per gli Affari Internazionali, è proprio una scuola per insegnare ai giovani ad appassionarsi alla politica. A che tempo che fa, annuncia, mi dimetto dal Parlamento. Certo, qualche sassolino, il pretesto dell'invito era un libro che Enrico Letta ha scritto, ne abbiamo già parlato la scorsa settimana. Dopo 12-13 anni consecutivi in Parlamento voglio vivere del mio lavoro. Una scelta ponderata lungamente, racconta anche dei rapporti con Renzi. I nostri rapporti sono sereni, dice Letta, certo senza che gli manchi una dose di ironia dopo il Letta stai sereno da parte di Renzi. Letta risponde: i nostri rapporti sono sereni. Certo, qualche sassolino, ricordate il famoso passaggio del campanello, il passaggio di consegne tra Letta e Renzi, con la faccia di Enrico Letta, diceva tutto del suo rapporto con Renzi. Comunque, la nuova vita di Letta: lascio la Camera, insegnerò a Parigi. Renzi non lo sapeva, ora lo sa. Così, dal Corriere della Sera, la notizia del giorno certamente è questa per la politica. E poi la legge elettorale, ma come? Eh sì, entriamo davvero nei giorni decisivi, lo dico anch'io, entriamo nei giorni decisivi, racconta addirittura La Stampa che in commissione, dove il vice capogruppo Rosato del PD è reggente della numerosa truppa dei democratici dopo le dimissioni del capogruppo Speranza, ha fatto una serie di telefonate del tipo «Come pensi di orientarti nei voti in commissione?» ha chiamato tutti i colleghi del Partito Democratico. Il PD sonda i dissidenti e prepara la sostituzione di massa. Questo addirittura racconta Francesca Schianchi sulla Stampa. Rosato è pronto a segnalare coloro che in commissione non sono a favore della legge elettorale, quindi possono essere sostituiti. Tra i deputati a rischio anche Rosi Bindi, Bersani, Cuperlo che avverte con la fiducia la legislatura è a rischio. Comunque, diciamo che ci sono appena 20 emendamenti dei grillini, 27 di SEL, 7 della minoranza PD e nessuno da parte dei centristi di Alfano. Insomma, sono pochi gli emendamenti alla legge elettorale, però sono anche pochi, ma sono strategici. Questo almeno racconta il Corriere della Sera con Dino Martirano. Pochi emendamenti, ma strategici. Soprattutto alcuni sono emendamenti trappola per cambiare in maniera molto, molto pesantemente la legge elettorale. Ora non entro in tecnicismi perché altrimenti qualcuno non capisce nulla. C'è anche qualcuno che è entrato in studio, Lorenzo Nespoli, che ci periscopa in questo momento. Periscopa, siamo in diretta anche su Periscope in questo momento. E allora siamo quasi alla conclusione. Vabbè, vi segnalo che Giuliano Ferrara, nell'editoriale che fa il lunedì in prima pagina del Foglio, dice che avrebbe proprio visto con grande soddisfazione la Boldrini alzarsi in aula, chiedere il permesso ai suoi collaboratori, alzarsi, attraversare l'emiciclo, raggiungere l'onorevole Di Battista e dargli due schiaffi sulla faccia. Questo quando Di Battista l'ha apostrofata la scorsa settimana in una seduta molto tumultuosa finita anche qui in audio sulla questione dell'immigrazione. Avrei proprio voluto questa scena, la Boldrini che si alza e dà due schiaffi sulla faccia ad Alessandro Di Battista, un gesto che avrebbe fatto epoca. È un po', Ferrara dice, la risposta all'antipolitica che c'è. Ma siamo al momento della carta costa. Ecco perché qua Lorenzo Nespoli fa su Periscope. Oggi La Stampa con Roselina Salemi dedica una pagina intera, piena, per dire che il 64% delle donne, sondaggio, si lascia influenzare al primo incontro non dai muscoli, ma dal sorriso. E allora c'è il sorriso di George Clooney, di Brad Pitt, di Hugh Jackman, di chi cavolo è questo, Jan Sommerhalder, il sorriso ipnotico, i sorrisi, una pagina sui sorrisi. Ma chi se ne frega? Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan. Che devozzino via fuoco. Milan, il cagnas randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei. Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Siamo qui, cari ascoltatori, sono le 8:20 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, secondo la testimonianza di uno dei sopravvissuti, erano oltre 900, non 700, a bordo del barcone che si è rovesciato al largo della Libia. Che poi se fossero 700, 900, 10, 1, il tema è sempre lo stesso, si contano i morti, si sentono anche le solite frasi, l'Europa non ci lasci sola. Ed è giusto che l'Europa non ci lasci sola, per carità. O aiutiamole a casa loro, basta sbarchi. Ma poi sembra si faccia fatica a trovare una soluzione efficace per fermare i morti innanzitutto. E poi comunque anche questo flusso continuo e inarrestabile di migranti. Poi c'è la solita polemica politica, gli attori e i primi attori li conoscete già. Salvini. Era questione di tempo, perché più ne partono più ne muoiono. Occorrono altri 700 morti per bloccare le partenze. Bloccare le partenze. Renzi risponde a queste polemiche così. Trovo davvero inqualificabile le polemiche demagogiche di una parte della politica. Comunque, una soluzione, almeno a raccontare quello che dicono i giornali, pare profilarsi. È un'opzione militare. E di questa opzione vogliamo parlare, e di altro ovviamente, di questo tema, con il sottosegretario alla difesa Domenico Rossi. Buongiorno, buongiorno Rossi e benvenuto. Buongiorno a lei e anche agli ascoltatori. Tra l'altro generale, uomo che l'esercito lo conosce molto bene perché ha fatto una carriera, una lunghissima carriera. Saluto anche Carlo Panella, esperto di Medio Oriente, scrive su Libero e anche in libreria con il saggio Il Libro Nero del Califfato, edito da Burr. Buongiorno e ciao Carlo. Ciao, buongiorno. Eccoci qua. Allora, onorevole Rossi, leggo oggi sui giornali. L'idea parrebbe questa: estendere la risoluzione ONU che permette di fare raid aerei in Siria e in Iraq in funzione anti-ISIS, estenderla anche alla Libia. Non è una procedura semplice, è una procedura complicata. Estendendola alla Libia si può andare a colpire, per esempio, i barconi vuoti, ovviamente prima che partano, e stroncare questo fenomeno. È un'opzione sul tavolo, sottosegretario? Guardi, ricapitolando un attimo quello che prima ha detto lei o comunque abbiamo detto agli ascoltatori, è evidente che in questo momento, numero uno, esiste un problema che è non più tanto quello del soccorso ovviamente dei migranti, che rimane come priorità, ma quello evidentemente di dichiarare guerra agli scafisti. Mettiamola così in maniera abbastanza chiara. Nell'opzione di dichiarare guerra agli scafisti abbiamo varie possibilità. Evidentemente, peraltro, qualsiasi tipo di operazione qualsiasi Stato possa condurre nei confronti degli schemisti rischia di essere un atto di guerra nei confronti di un altro Stato, cioè la Libia, a meno che questo non avvenga sotto una egida di carattere internazionale. Evidentemente, pertanto, sia l'opzione che un'opzione di polizia internazionale, sia il fatto di utilizzare la risoluzione delle Nazioni Unite che consentono i raid aerei insieme in Iraq, eccetera, sono opzioni che non possono essere prese in esame, fermo restando il consiglio straordinario chiesto da parte del Premier Renzi, in cui evidentemente si può discutere di questo. Anche perché, appunto, partire, andare in Libia a bombardare è un atto di guerra, di guerra nei confronti della Libia, uno Stato sovrano. Contro la Libia, anche se la Libia, sappiamo, è uno Stato un po' allo sfascio in questo momento. Per cui ci vuole. Ma allora, una strada è quella dell'ONU, appunto, risoluzione dell'ONU, estenderla alla Libia, ma in quel caso, portiamoci un po' avanti, dovesse succedere, chi prenderebbe parte poi operativamente a questo tipo di operazioni? Evidentemente stiamo parlando di un'operazione di carattere diciamo coperta da una risoluzione delle Nazioni Unite. Potrebbero prendere parte qualsiasi paese che vuole intervenire nell'area. Sì. Ovviamente non, diciamo che è sempre stato indicato come il Mediterraneo, e la Libia è sicuramente fa parte di quell'area di carattere strategico di interesse per tanti motivi dell'Italia, un'area fra le altre cose che evidentemente si è trasformata ancora di più di interesse a seguito di questa apocalisse dei migranti che ci coinvolge direttamente anche per la, non solo per motivi di carattere storico passato, ma anche per la vicinanza, geografica. Ma è chiaro che l'Italia sarebbe uno dei paesi più accreditati a dover essere coinvolta, a dover eventualmente assumere anche degli impegni di comando. Sì, e qua Carlo Panella, pare che Renzi di questo abbia parlato anche con Obama direttamente venerdì. È uno scenario ipotizzabile quello di andare proprio a stroncarli fisicamente questi viaggi, che portano fino a 800.000 euro di guadagno, visto che si paga 3.500 euro a migrante? Sì, uno scenario ipotizzabile dal punto di vista teorico, tenendo conto però del fatto che stiamo parlando di azioni, come dire, di presidi sul territorio libico autorizzati dalle Nazioni Unite e da quel che sarà il governo libico, se mai ci sarà, che hanno lo scopo non, diciamo, di sistemare la situazione interna della Libia, ma di colpire gli scafisti. Però dobbiamo tenere conto che abbiamo di fronte 2.500-2.700 chilometri di costa, e abbiamo la necessità, pur avendo delle grandi tecnologie a nostra disposizione, di avere delle grandi forze navali, aeree, commandos e via. Però per dire, con i satelliti si può sapere, con i satelliti si può controllare tutto. Si può sapere con i satelliti di notte, non è che puoi sapere. Stanno partendo da lì. 2.500 km di costa, quando stai parlando di 50-100 persone che salgono su un gommone, ma non esageriamo. Possiamo forse questa nave la si poteva vedere. Insomma, è una cosa molto complessa che ha bisogno di un dispositivo di svariate migliaia di uomini e di navi. La copertura potrà essere probabilmente, perché è la più rapida, quella della risoluzione ISIS, che non ha bisogno di altri. Il problema però vero, diciamo, il sottosegretario non può dirlo, lo dico io, è che la NATO se ne sbatte, l'Europa se ne sbatte, cioè, scusate il termine, ma l'indignazione è chiaro, a questo è chiaro, punto. Però è la sensazione allora, che hanno in molti. I governanti possono dire, devono dire quello che vogliono, ma lo scandalo è che la NATO, che ha provocato questo disastro, voi mi conoscete insomma in parte, io non sono un animo pacifista, ma sono contro questa guerra nel 2011, sono stato sin dal primo contro Gheddafi. La NATO che si occupa, che ha fatto questo disastro, neanche ne discute. Perché qui quando parliamo di un intervento militare è evidente che lo strumento principe dovrebbe essere quello della NATO. La NATO è assente, non interessa niente, parla e strafa soltanto di Ucraina. Obama a Renzi ha dato un assenso di massima a questa ipotesi che io avevo già delineato su Huffington Post di utilizzare l'ISIS e ha dato una grande solidarietà. Naturalmente non hanno parlato di droni come soltanto dei giornali di piccola provincia come l'Italia possono anticipare, figurarsi se Obama e Renzi parlano di droni, ha dato una disponibilità, una solidarietà tecnica eventualmente, soprattutto una disponibilità in termini ONU per questo discorso della risoluzione che ho detto io. Ma il problema politico, signori, è che l'Italia si trova da sola in questo frangente. Ma perché l'Europa se ne sbatte? Ma questi arrivano anche in Europa, vogliono andare in Europa, poi molti poi ce la fanno, alcuni ce la fanno ad andare in Europa. Cioè, come fa a sbattersene l'Europa? Sta per scontato questo, anche perché c'è una frontiera di terra, che è quella con la Grecia, tra la Turchia e la Grecia, tra la Bulgaria e la Grecia, che è molto permeabile. L'Europa dà per scontato che ci sia questa presenza di alcune migliaia di emigrati, ma non gli interessa. Signori, abbiamo 215.000 morti in Siria, abbiamo 2-3 milioni di profughi siriani, abbiamo la situazione che c'è nel Sahel, c'è una situazione spaventosa umanitaria a ridosso dell'Europa che tra l'altro fa nascere e crescere, come spiego nel mio libro, questo cancro cancro dell'ISIS non nasce dalla guerra del 2003 contro Saddam, che è stato risolto lì, nasce dalla guerra in Siria con 215.000 morti. L'Europa non è interessata. Vediamo questo. Panella, perché sottosegretario, insomma, Panella lo dice ovviamente con un tono che un giornalista si può permettere di dire, a lei che fa il politico, sottosegretario alla difesa, quindi rappresenta il governo, che ne pensa del rapporto con l'Europa? Io credo che, fermo restando che l'Europa deve fare di più, però vorrei sottolineare come fin dal primo momento dell'esigenza il governo, quello che ha cercato di fare evidentemente, è proprio di coinvolgere in maniera più determinante l'Europa. Non è un caso che sia insufficiente, lo sappiamo tutti, ma non è un caso che comunque siamo arrivati a Triton, non è un caso che Martin Schulz oggi come oggi dica finalmente con Triton, non è, leggo testuale, non è diminuito il numero dei migranti, l'Unione ora dia mezzi e soldi perché la sua missione funzioni. Sono degli spostamenti di comunicazione che evidentemente alcuni mesi fa non avremmo avuto. Il processo è purtroppo più lento delle esigenze. Credo peraltro che questo convegno straordinario possa essere effettivamente la risposta. Diciamo che il governo sta facendo quello che doveva fare, cioè cercare di coinvolgere al massimo l'Europa, e ci auguriamo che all'interno del convegno straordinario vengano prese anche o possano essere prese però questi insomma sono gli auspici, questo certamente. Mi faccia capire però, perché il sottosegretario invece pare escluso da Renzi e pare escluso dal governo l'idea del blocco navale, cioè innanzitutto il blocco navale, ritorniamo un attimo al discorso di primi, è di fatto illegittimo, perché non è una dichiarazione di guerra contro gli scafisti, ma sarebbe contro uno Stato sovrano. In ogni caso, sotto un punto di vista tecnico, se un blocco navale non è unito a un'azione di respingimento, qui andremo contro a processi di solidarietà, andremo contro sì. anche a eventualità, si trasformerebbe praticamente in una specie di rubinetto che non può essere chiuso, con ci troveremmo dei barconi abbandonati a mare di fronte alle nostre navi, quindi ci troveremmo esattamente nella stessa situazione di prima, a meno che il blocco navale poi non si trasforma di fatto in un'operazione Mare Nostrum, cioè in un'operazione sì, andare a prenderli, allora si torna indietro, dire, si torna anche indietro. Quando si parla di queste soluzioni occorre parlarne in maniera assolutamente chiara, perché altrimenti se no si mandano dei segnali e si dà l'impressione di soluzioni che possono essere, che sono non solo fattibili sotto un punto di vista di carattere giuridico internazionale, ma anche sotto un punto di vista pratico. Allora, e faccio e voglio dire che fermo restando quanto ha detto il Premier Renzi, che ovviamente condivido, ma non solo per il fatto di far parte del governo, mi appoggio anche a quanto dichiarato dal capo di Stato Maggiore della Difesa, dall'ex capo di Stato Maggiore della Difesa, che era stato anche capo di Stato Maggiore della Marina, che proprio sull'efficacia sotto un punto di vista tecnico di un blocco navale crea in una sua dichiarazione di ieri delle grosse perplessità. Allora, per concludere, Panella, che cosa succederà praticamente secondo te? Perché altrimenti siamo sempre a raccontare la prossima tragedia, le prossime, per carità, insomma, il tema succederà è poco. Poco. Succederà poco, perché naturalmente ha ragione il sottosegretario, il blocco navale o serve a fare quello che dicevamo prima. L'unico modo per impedire questo disastro è quello di andare a colpire gli scafisti sul territorio libico. Questo è l'unico modo. E anche quello di diminuire la pressione mettendo dei campi profughi ai confini lungo le carovaniere in cui arrivano poi in Libia. Ci ha detto il sottosegretario all'interno Manzione, che il governo sta cercando di farlo, ma sai, sono procedure diplomatiche con i paesi, allora, molto lunghe. Mi pare che sia evidente. Insomma, il sottosegretario deve vedere per compiti istituzionali l'ottimismo laddove il bicchiere non è mezzo vuoto, è tre quarti o 90% vuoto. È evidente che l'unica azione seria, non parliamo di politica, non facciamo campagne elettorali noi, l'unica azione seria è quella di un presidio delle coste libiche tale che impedisca agli scafisti di fare questa, politica di nuovo schiavismo assassino. Per fare questo ci vuole un impegno militare di uomini, disponibilità e di soldi enorme, perché stiamo parlando di svariate migliaia, se non decine di migliaia di uomini impegnati in terra, in aria e in mare. Ma questo è vero, però forse se lo si fa, magari si riesce a stroncare, cioè magari è un impegno immane all'inizio che può portare a stroncare il fenomeno subito. Staremo a vedere, però tu Carlo dici in realtà si vedrà poco per il momento. Io mi devo fermare ringraziando il sottosegretario alla difesa Domenico Rossi e Carlo Panella. Voglio ricordare ancora il suo libro, se lo volete comprare, Il libro nero del califfato, edito da Burr, per raccontare anche come tutte queste vicende siano anche legate alla nascita, poi alla proliferazione dell'ISIS in un'ampia zona del Medio Oriente. Dopo invece la pubblicità parleremo del caso della politica italiana, un caso in Campania, l'abbiamo affrontato nei giorni scorsi, sindaci che non si possono candidare per legge alla regione, e allora che si fa? Ma in Italia si trova sempre l'escamotage, la scappatoia, la terza via, non mi posso candidare da sindaco alla regione Campania e mi invento... ve lo spieghiamo cosa ci inventiamo tra poco. Allora, sono le 8:39 minuti e cari ascoltatori, vogliamo parlare di quello che succede nella regione Campania. C'è una polemica legata ad alcuni sindaci. Voi dovete sapere che c'è una legge che impedisce in Campania a un sindaco di rimanere sindaco e candidarsi in regione. E però qualche sindaco voleva candidarsi. Nel frattempo non voleva dimettersi. Lasciando e perdendo il controllo del proprio comune. Ma come ho detto prima, in Italia c'è sempre un modo, c'è una terza via se uno la va a scovare. Per esempio, se invece delle dimissioni dal comune si fa scattare una causa di incompatibilità, cioè non posso più rimanere sindaco perché sono incompatibile, è successo qualcosa. Beh, così con l'incompatibilità è più facile, perché ci si può candidare in regione. E in comune non si decade, il potere passa al vice sindaco, per cui magari è una persona dello stesso partito e posso continuare a, influenzare il mio comune, la mia giunta rimane in carica. Allora, pare che il primo ad avere scovato un sistema di questo genere è il sindaco di Agropoli, Franco Alfieri, che saluto. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Buongiorno. Lei che ha fatto? Le è arrivata una multa? Una multa per che cosa? Il divieto di sosta. Divieto di sosta. Però prima possiamo chiarire, sì, perché se partiamo da un presupposto errato poi continuiamo a costruire un castello. Sì. Qual è il presupposto errato? Ma il discorso è che non è che è stato trovato un escamotage, c'è una legge, c'è una legge dello Stato. Vabbè, allora è stato un mio giudizio, è stato un mio giudizio. La prima cosa. C'è una legge. Seconda cosa, nessuno parla della legge regionale, l'unica in Italia che impedisce questa cosa. E non solo impedisce a un sindaco, quindi lo costringe alle dimissioni per potersi candidare, ma addirittura con le dimissioni scatta la nomina di un commissario. Vabbè, quindi, allora, questo però è un giudizio. Veniamo prima alla cronaca. Veniamo prima al fatto. Sì. Spieghiamo il fatto. Sì. Poi dopo. Allora, lei ha preso una multa. Non l'ha pagata, volutamente non l'ha pagata. No, è stata impugnata dinanzi al giudice di pace. Ma lei, io non ne ho fatto mistero di questa cosa. No, ma infatti lei ha detto io l'ho impugnata. Per questo un sindaco, adesso ce lo spiega. Esatto, un sindaco che impugna una multa è incompatibile, quindi lei l'ha volutamente impugnata. Ma e per questo lei è diventato incompatibile. Diventando incompatibile decade, entra il suo vice sindaco e lei l'ha fatto per atto di ribellione verso questa legge? Così? È un atto di responsabilità nei confronti della mia comunità, perché una gestione commissariale per un anno certamente non è la stessa cosa che continuano ad amministrare una città amministratori eletti con un programma elettorale che va portato avanti. Ma quindi, perché lei contesta che io dica trovato un escamotage? Come lo vuol chiamare? È una furbizia? Non lo contesto, certamente che è un modo per evitare, e quindi per me è un atto di responsabilità, pur sapendo che mi sarei esposto, ovviamente, mai pensando fino a questo livello, perché siamo nelle prime pagine dei giornali. E come no. Per esempio, vuole che le presenti un altro sindaco, suo collega anche di partito, è del PD, sindaco di Giffoni, provincia di Salerno, Paolo Russomando, che saluto, sindaco. Buongiorno Russomando. Buongiorno. Lei invece mi dica se è così, ha fatto questo, con la macchina è finito, racconta al mattino, è finito in una buca, il cittadino Russomando per questo ha denunciato il sindaco Russomando, cioè lei stesso, costringendo se stesso alla sospensione, è così? Certo, sì, è così. Ha fatto così. Ma come la vogliamo definire, sindaco Russomando? Ma io credo che bisognerebbe parlare del perché il presidente Caldoro ha fatto una legge contra personam. Questa è una legge per evitare che si potessero candidare i sindaci. Sì. Andando contro una legge nazionale, però contro la legge della regione Campania, è una legge contro tutti i sindaci, non contro di lei o contro no, è una contro legge. Tutti i sindaci della regione Campania, che sono quelli che sono a maggiore contatto con i cittadini e quindi penso anche le persone più in condizione di potersi candidare a rappresentare però sindaco, la regione mi faccia capire, lei come le è venuta in mente questa cosa? Dice mi faccio una denuncia, vado in una buca, mi autodenuncio. È accaduto un incidente incidente. Quale io ho dovuto per forza di citare il comune. Potevo non farlo perché è successo a gennaio, infatti non è che l'ho fatto il giorno seguente. Potevo non farlo, però in questo momento questa citazione è servita a salvare il comune e lei a candidarsi. A salvare il comune, a dare una continuità amministrativa alla giunta e al consiglio, che giustamente devono completare un programma elettorale. E a me mi mette nelle condizioni di potermi candidare. Vabbè, ma insomma sono furbizie, cioè, ma voi lo fate, lo dite in maniera furbizia. Beh, come la vogliamo definire, sindaco? Io credo che la furbizia, anzi la scelta scellerata operata di notte dal consiglio regionale, non discutendo nel merito di una legge elettorale, ma facendo una, approvando questa, questa norma collegata a una legge finanziaria. Vabbè, ma certo, io questo voglio dire, è sindaco, a 4 mesi dalle elezioni regionali, mi faccia tornare un attimo, è una cosa vergognosa. Vabbè, sarà vergognosa, però sindaco Alfieri, cioè, il detto fatta la legge trovato l'inganno, vale. È possibile mai che si inventano sistemi elettorali per evitare le persone che hanno il consenso e che hanno la stima della gente di essere... Ma non è che ce l'avevano contro di voi, l'hanno fatto semmai contro tutti i sindaci della campagna. Ma certamente questo è un problema di classe dirigente, anche dell'opposizione, che per autoconservare una posizione impedisce a persone che hanno il consenso vero sul territorio di essere candidati. Purtroppo in Italia stiamo assistendo ormai a sistemi elettorali dove si deve essere nominati, indicati e non eletti. Ah, per quello. E quindi voi dite, questa è la legge e noi... applicare contro un sistema che impedisce chi ha il consenso vero di candidato. Però, questa sindaco Alfieri, le chiedo questo. Perché nessuno ha fatto una ma infatti, ma vale, però questo le dico, e a lei e a Russo Mando, cominci lei, sì. Alfieri, sia sì. Repubblica con Francesco Merlo, ma sia al Mattino, sì. Soprattutto, ha fatto una campagna a dire, cari elettori cittadini, stampatevi bene le foto e i nomi di questi sindaci, e non votate lì, non votate, non... dire una cosa, perché Mattino, è una vergogna votare. Non sono la Bibbia. No, certo che non sono la Bibbia. Io le chiedo politica, che ne pensa lei. Per chi fa politica, il vero giudizio è quello degli elettori. Vediamo se sarà ascoltato il parere di Repubblico del Mattino, vediamo un po' se saremo votati o non saremo votati. Beh, questo certo, il popolo deciderà, però il Mattino ha fatto, il Mattino giornali, ha fatto questa appello. Se i giornali dettano la linea politica, se i giornali dettano chi deve essere eletto e chi non deve essere eletto, basta andare sui giornali, quindi molta gente sui giornali, ma, no, non, ma non, è che, non è che dettano, però hanno fatto una campagna. Russo vabbè, Mando, ma Russo sembra, Mando, ma lei sembra corretto che un giornale in prima pagina dice... Beh, se trova una cosa, se trova una cosa scandalosa, può un giornale dire, cari cittadini, vi raccontiamo questa cosa che troviamo sbagliata e vi invitiamo a non eleggere. È legittimo, e poi lei giustamente dice, se i cittadini invece ci voteranno, vi voteranno. Russo Mando, lei che ne pensa della campagna del Mattino a dire, non votate queste persone? Ma io credo che sia legittimo per un giornale far pubblicare un articolo del genere. Io ho fatto una lettera al direttore del Mattino il giorno seguente per dire... per rappresentare il mio rammarico verso un articolo, credo tra virgolette, di poter definire violento nei confronti di persone che si impegnano costantemente e quotidianamente per il proprio territorio, per la propria comunità, e se si trovano in questa situazione è perché, come dicevo prima, di notte il Consiglio regionale ha approvato una legge che è vergognosa, perché ho capito, ma è una legge, però è una, l'avranno votata anche gente del suo partito in legge regione, vergognosa, sulla quale credo che bisognava prendere una, con grande forza e determinazione, una posizione politica da parte del mio partito in primo luogo, che sta all'opposizione e che non l'ha votata, e anche dall'ANCI, che è l'associazione dei però comuni. Caro sindaco, mi perdoni, se una legge regionale no, se una legge infatti, non va bene la non, si rispetta e si contesta, non è che la si aggira. Io la sto rispettando, ma infatti la... non mi candido senza dimettermi, ma, la, cioè, ma è già stata dai, ma è, una è un aggiramento della legge, però la decadenza che si sta portando avanti non mi consente, una volta non eletto al Consiglio regionale, di poter ritornare ma a fare il però sindaco. C'è il vice sindaco, io di no? Fatto sono dimissionario, sì. È come se mi fossi sì, ma l'avete dimesso. Fatto per non far arrivare il commissario, la differenza è che il commissario che dovrebbe venire al comune non viene. Fatto, e quindi c'è una continuità amministrativa da parte del Consiglio regionale. Ma l'avete fatto giunta. Per questo, per garantire una continuità amministrativa e voi di potervi candidare. Però, ripeto, per me, se c'è una legge che non vi sta bene, la si contesta politicamente, si chiamano i responsabili di regione del proprio partito, si contesta questa cosa, ma non è che la si aggira, cioè, con dei trucchetti. Questo almeno è quello che è il senso della campagna di stampa che hanno fatto al Mattino, Repubblica, che raccontiamo anche noi. Comunque, io intanto vi ringrazio di essere qui, perché sono 7 sì. Sindaci, voi Franco Alfieri, Agropoli, e Paolo Russo Mando, Giffoni, della provincia rispettiva di entrambi di Salerno, siete qui a raccontarci perché avete fatto questa cosa. Bocca al lupo per la campagna elettorale alla Regione Campania, che vi devo dire intanto al traffico. Lavoratori, chi non lavora... ebbene sì, l'avete capito, questi sono i nostri lavoratori, gente che ci scrive perché ha passione per quello che fa. A 24 mattino e radio24.it, e noi ogni giorno invitiamo uno di voi a raccontare il proprio lavoro. Oggi saluto Massimo, buongiorno Massimo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Massimo mi ha scritto, ci ha scritto una mail della quale ho capito niente. No, io ho segnato così: disegna cartoni animati per descrivere il funzionamento di macchine industriali. Esatto. Ah, dunque, io vivo a Crevalcore, una cittadina alle porte di Bologna. Sì. E come sai questa è una zona dove ci sono moltissime aziende che si occupano di packaging e di automazione. Ah, ok. È la famosa packaging valley. E, dunque, come sai benissimo, oggi come oggi non si produce né si progetta nulla che non sia già stato venduto. Sì. Generalmente. E allora cosa succede? Che quando queste aziende contattano un cliente che ha un nuovo prodotto oppure vogliono migliorare il loro processo, prima di iniziare a tirare delle righe, come si dice in gergo, prima di iniziare a fare una progettazione vera e propria, bisogna spiegare di cosa si tratta. Esattamente, allora io parlo con i progettisti e faccio una sorta di simulazione, una sorta di cartone animato di come poi funzionerà questa macchina. Questa macchina, ma perché, perché bisogna farlo come cartone animato? Perché è più facile, è più chiaro, uno lo vede. Certamente, dice... è molto meno costoso, cioè una progettazione vera e propria è un processo lungo. No, no, ma è chiaro, perché uno dice non può spiegarlo a parole, non può fare una progettazione, allora fai così degli schizzi, cartoni animati, questa macchina funzionerà così. Esattamente. Esattamente questo. Tieni anche presente che c'è un piccolo plus, cioè che se non ci passa non ci passa, cioè? Se non funziona. Ah, se non passa il cartone animato, la macchina non viene venduta. Cioè. Quindi è fondamentale come viene. Cioè, è una piccola pre-progettazione, è un piccolo studio di fattibilità. Certo. In più tieni anche presente che nel caso la cosa abbia successo, poi questo cartone animato può essere utilizzato poi in seguito per i tecnici, per gli utilizzatori, per non so, illustrare funzioni di messa a punto, di cambio formato. Lavoro segno tecnico, giusto? www.segnotecnico.com. Ah, c'è anche il sito, giustamente. Segno tecnico, ma segno tecnico è il tuo sito o anche un modo in cui si definisce quello che fai? No, è semplicemente il nome del sito. E quindi vabbè, si rivolgono a te persone e dicono devo spiegare questa macchina, per cui tu ascolti questa macchina, ascolti, elabori come sarebbe una progettazione e butti giù dei disegni. Ma quanti ne butti? 5, 6, 10? No, è proprio un filmato. Ah, il filmato, sì. Ma anche. Proprio, il risultato di solito è un filmato, premesso che io comunque faccio anche eventualmente rendering statici, cioè modelli sì, 3D. Tavole, diciamo, tavole oppure filmati in cartone animato. Però diciamo che di solito il tutto si traduce in un filmato in cui appunto si illustra come funzionerà la macchina. Ma è fantastica questa cosa. No, è fantastica Massimo, perché mi hai fatto capire una cosa che io non conoscevo, la mia smisurata e sconfinata ignoranza, cioè che appunto prima di progettare una macchina eccetera c'è anche questo lavoro attraverso i cartoni animati per spiegare al potenziale cliente come funzionerà una macchina. Ti ringrazio Massimo. www.segnotecnico.com. poi se ho sbagliato, se non avete capito bene, come sempre la mail di appoggio è la nostra 24 mattino e radio24.it. Da me, da Elisabetta Fusconi, da Lorenzo Nespoli, da Alessandro Longoni, da Carmelo Lauricella, da Peter Bescapè, ciao, a domani.